stai certo, Violante? Gli occhi, la grazia, il brio, e non mi inganno, tutta assomiglia. Dimmi, barbaro mostro, qual delitto punesti in me? Oddio, tu senza colpa mi trafiggi, m'uccidi, innocente mi scorgi. Me, che sudo! Dimmi, tu vivi? Ma come in queste vesti, mia cara marchesina? Così disse, morendo la meschina. Ella dunque morì. E io di voi, chi può saperlo? Te fate almen, che in quegli occhietti vaghi. Ma che parlare? A voi mio sol, mia luna, mia cometa brillante, che avete io?